E anche un applauso a questi ragazzi, no? Grazie per questo momento di lode. Bello, bello, bello. Possiamo accomodarci. Come stiamo? Bene? Chi può dire oggi mi sento pienamente felice? Oh, mamma mia, che bello. Gloria a Dio per questo. L'altro giorno leggevo che hanno soprannominato un farmaco, il farmaco della felicità. Non vi dirò il nome per non indurvi in tentazione nell'assumere questo farmaco. Però no, sviluppa l'agilità mentale, il non rimanere sempre fissi su pensieri, sul rimuginio. Pensavo a quanto siamo proprio messi male se andiamo a ricorrere a un farmaco per essere felici, ma ormai no, lo fanno di tutto. C'è anche uno per la timidezza, non so se è un problema la timidezza, però c'è anche un farmaco per questo. E oggi parleremo di vivere una vita ordinata. E penso che questo sia molto attinente perché spesso entriamo nell'inganno di cercare di guardare e occuparci solo di quello che ci viene incontro, no? Delle conseguenze, magari dell'ansia, della tristezza, e cerchiamo una soluzione veloce, no? Senza dolore, che ci faccia passare subito quello che stiamo provando, e non andiamo però dritti alla causa, non andiamo in profondità, non ci chiediamo ma io perché sto provando ansia, e da un giorno all'altro provo ansia, oggi sono triste, ma perché lo sono? Cosa mi è successo? Perché ho incominciato a sviluppare attacchi di panico? Perché non riesco più a dormire bene? No, cerchiamo solo di curarle, di togliere il dente, ma spesso dovremmo andare, sempre dovremmo andare incontro solo alla causa, al perché. Perché io vengo tentato in quest'area? Perché ho difficoltà proprio lì? Perché ho difficoltà proprio nelle relazioni? Perché più volte in quest'area è andata male? Guardare alla causa, guardare a quel punto lì dove qualcosa si è rotto o dove non sono più riuscito a guardare al Signore. E non so voi, ma io voglio vedere le mie preghiere esaudite. Io voglio vedere gente venire a Cristo a fiumi perché è quasi costretta da vite che vivono pienamente e innegabilmente Dio. Noi dobbiamo essere quelle vite, no? Noi dobbiamo essere quelle luci per le quali le persone non possono dire altro, non possono fare altro che ammettere quella persona a qualcosa di diverso. E, sapete, guardando alla Bibbia, a quello che dice di vite di questo genere, la Bibbia no, è Dio e quindi ha tante sfumature. La Bibbia è amore, la Bibbia però è anche riprensione. La Bibbia è spada, però la Bibbia è anche direzione. E spesso guardo alla Bibbia, noi leggiamo le storie dei grandi patriarchi oppure dei profeti oppure quello che è accaduto al tempo di Gesù, e noi ci diciamo mamma mia quanto sarebbe bello vedere quelle manifestazioni di Dio, no, Abramo ha incontrato Dio fisicamente, quanto lo vorrei incontrare io, perché io no? Oppure tutti i grandi miracoli che succedono, però poi se ci pensiamo io credo che davvero Dio abbia perfettamente attraversato la storia dell'umanità, in modo perfetto, in ogni tempo dell'umanità. Forse guarda a noi oggi, guarda a me, guarda a te, e ci aveva pensato, no? E forse qualcosa di scritto, qualcosa che non lascia dubbi, è la cosa migliore per delle teste come le nostre, no? Per un tempo come questo. E la Bibbia è una precisa descrizione, è una mappa di come una vita ordinata, secondo la parola di Dio, dovrebbe essere vissuta. Abbiamo una grande, grande risorsa dalla quale attingere, che non parla di cose lontane o nascoste, parla di verità che oggi a noi sono accessibili. E lo fa sin dall'inizio, sin dal primo libro, che magari a volte per noi è quello più lontano dalla storia di oggi, no? Dal 2024. E possiamo iniziare a leggere insieme Genesi 1, i primi tre versetti. È scritto: nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era in forma e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Sin dai primi tre versi del libro più importante forse della storia dell'umanità, il Signore ci dona un principio cardine, utile per vivere oggi la nostra vita in modo ordinato, in modo giusto. Prima di creare qualsiasi cosa, prima che fosse creato l'essere umano, prima che fossero creati gli animali e che la terra avesse l'aspetto che ha oggi, Dio ha nettamente separato quello che è luce e quello che è buio, quello che è giorno e quello che è notte, soprattutto quello che è giusto e quello che non è giusto. Lui non ha creato una zona grigia, una zona di compromesso, ha creato quello che è luce e quello che è buio. Nel momento in cui il Signore incontra la nostra vita e ci dà nuova speranza e noi accettiamo Gesù come personale salvatore, Lui vuole subito definire quello che è luce e quello che è buio, quello che per le nostre vite è giusto e quello che per le nostre vite è sbagliato. E sapete, uno dei problemi più grandi di questo mondo è quando l'essere umano vuole inserire la propria soggettività, la propria idea, i propri pensieri all'interno di qualcosa che è già stato definito. E per noi credenti questo è amplificato, perché abbiamo due strade, no? Se le cose non vanno bene. O non lo sappiamo, e quindi non conosciamo davvero approfonditamente su certe tematiche cosa è giusto e cosa non è giusto. E questo è un problema. Oppure peggio lo sappiamo, abbiamo conoscenza, sappiamo qual è la verità, ma per diversi motivi ci inseriamo quello che è la nostra idea, magari la nostra esperienza di come vanno le cose, oppure l'incredulità che oggi, nel 2024, nel mondo di oggi, si possa vivere davvero una vita secondo la parola di Dio, una vita per Dio. E spesso di questo ne facciamo una corazza per non affrontare le nostre paure, i nostri timori. Dentro di noi ci diciamo, ma in fondo, chi ci riesce? In fondo, come è possibile? E i giorni passano e noi rimaniamo lì. Ma che poi la componente umana che guida questo, no? La razionalità, l'emotività, è inevitabile, no? Fa parte di noi. Cioè noi siamo esseri umani e quindi è da considerare che questo accade. È un po' quello che è accaduto quando, no, in Giovanni 8, 37, i farisei discutono con Gesù in merito al loro discendere da Abramo. E Gesù che cosa è che gli dice? Io so che siete progenie di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. La parola di Gesù non trovava posto in quella mente piena di conoscenza dei farisei, in quella mente che pensava di aver già capito tutto, no? Che sapeva come dovevano andare le cose, che aveva conoscenza, che era piena di buone abitudini, piena di legge. E magari a noi a volte accade la stessa cosa. Noi siamo pieni delle nostre idee, pieni del nostro sapere, pieni ormai di esperienza e esperienza su come vanno le cose. E non c'è posto per le verità, per le risposte, magari anche alle nostre preghiere che il Signore vuole dare. Non c'è posto per la verità di Gesù, non c'è posto per lo stupore che Gesù era. Loro lo stavano aspettando il Messia, ma non l'hanno riconosciuto. E magari noi a volte preghiamo per qualcosa, chiediamo al Signore di rispondere, Lui lo fa anche, ma siamo troppo occupati, siamo troppo pieni a dire che sappiamo già come vanno le cose ormai. E allora come fare? Noi abbiamo detto ordine. Partiamo dal mattino, dall'inizio della nostra giornata. Ci sono giorni in cui ci svegliamo di buon umore e invece ci sono giorni in cui proprio non va. E subiamo, no? Quasi la sveglia, subiamo quelle che sono le nostre situazioni che ci portiamo dal giorno prima. Allora magari no, una soluzione, ma potremmo farlo anche adesso, impostare sulla nostra sveglia verità. Magari sto vivendo tristezza, impostare Gesù è la mia gioia. Magari sto vivendo ansia, impostare nel Signore c'è pace. Così da non subire la vita. E questo deve essere fondamentale per noi, non essere vittima di quello che ci accade intorno o dentro, nella nostra componente umana, ma noi, insieme al Signore, dettare come devono andare le cose, con le sue verità, con quello che Lui dice, fin dal mattino, fin dal principio. E questo anche per non subire le aree della nostra vita, perché spesso noi ci cataloghiamo come delle aree, ci dividiamo. Allora abbiamo l'area delle relazioni che va... Poi abbiamo l'area del lavoro, che prima andava bene, il Signore ha risposto e mo non ci prego più, tanto ha risposto. Non è più importante pregarci per questo. Magari l'area sentimentale della nostra vita, travagliata, e ci dividiamo, ci frammentiamo in aree. Noi non siamo aree, siamo esseri umani, che non vivono per questo. Perché a volte l'obiettivo, no, è settare il livello massimo in tutte queste aree. Allora devi andare bene al lavoro, devi andare bene in famiglia, devi andare bene nella mia area sentimentale, devi andare bene ovunque, se no sto male. Se no è un periodo no. E viviamo sempre periodi no. Non possiamo mai chiedere al nostro fratello come stai e sentirci bene. Io sto bene. Perché finché noi viviamo per questo, finché viviamo per raggiungere un benessere nelle cose di qui, non saremo mai bene. Perché non siamo fatti per questo. Noi non siamo stati creati dal Signore per questo, per essere un insieme di aree da sistemare. Non avremo mai la nostra piena soddisfazione, quello che cerchiamo, finché cerchiamo di soddisfare pienamente lavoro, famiglia, relazioni. Noi non siamo bene se va bene ovunque. Noi siamo bene perché siamo figli di Dio. E magari a volte servirebbe solo sovvertire l'ordine. Prima di dire, Signore, ti prego, entra nella mia vita e ti prego, sistema quest'area, poi sistema quest'area, poi sistema quest'area. Cioè noi chiediamo al Maestro di venire nella nostra vita e lo guidiamo noi. Gli diciamo noi quello che deve fare, dove lo deve fare, quando lo deve fare. E se non va bene, magari ci arrabbiamo pure. Invece magari dovremmo dire, Signore, ma tu che vuoi oggi per me? Ma tu la vuoi questa cosa nella mia vita? Anche se nella nostra mente, nelle nostre idee di come devono andare le cose, per noi devi andare così. Cioè se io ho quel lavoro incredibile, io lo devo accettare. Se io ho quel posto di lavoro sicuro, dove magari, vabbè, succedono, ma io come faccio ad andarmene? E sono cose dure, è difficile, ma vuol dire vivere per altro. Noi per cosa viviamo? Qual è il nostro primo interesse? E magari chiedere al Signore e aspettare l'attesa. Ormai non siamo manco più capaci di aspettare. Al giorno d'oggi abbiamo troppi input e l'attesa è impossibile. È infattibile. E poi i periodi di attesa, se magari diciamo no, io sto aspettando una risposta da parte di Dio, si traducono solo con periodi di incredibile sofferenza, dove io non sto bene finché il Signore non mi fa vedere. Finché il Signore non fa un segno. E un po' era quello che accadeva in queste discussioni che Gesù aveva con i farisei. Loro in Giovanni 6 dicono proprio, Signore, ma i patriarchi hanno avuto la manna dal cielo, e tu che ci dai? Che segni ci dai affinché noi possiamo credere? Che capriole fai? Che fuochi di artificio fai affinché noi possiamo crederti? E lui che gli risponde, io sono il pane della vita. Io sono il pane della vita. Voi dovete mangiare me, dovete bere del mio sangue. Non hanno capito niente. Li ha persi. Anzi, alcuni se ne sono andati. Alcuni discepoli hanno detto, questo parlare è troppo duro. Ma chi può ascoltarlo? E per noi oggi è troppo duro fare questo passo. Prendere questa decisione e dire, io non vivo più per quello che è intorno a me. Io non subisco più la vita. Io vivo di Gesù, del pane della vita, colui che non mi potrà mai essere tolto. E in questo modo ci può succedere di tutto, ma noi siamo fermi nel Signore. Altrimenti siamo sempre camminando sul cristallo. E poi il lavoro se ne va e noi crolliamo insieme a Lui. E poi magari litighiamo con qualcuno e siamo arrabbiati con tutti. Gesù non ce lo toglie nessuno. Gesù non ce lo toglie nessuno. E se noi viviamo per questo, avremo sempre un fondamento dove essere. Però siamo esseri umani e vogliamo leggere insieme una storia in cui, cioè l'ho scelta perché davvero quello che c'è scritto siamo proprio noi. Cioè mi sono immaginato la maggioranza dei genitori che è qui, che fa lo stesso discorso a Dio. Leggiamo in Giudici 13. Dal 2 al 14, c'è della storia di quando il Signore annuncia ai genitori di Sansone che lui sarebbe nato. C'era un uomo di Sorea, della famiglia dei Daniti, di nome Manoah. Sua moglie era sterile e non aveva figli. L'angelo del Signore apparve alla donna e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dunque dal bere vino, bevande alcoliche, non mangiare nulla di impuro, poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla testa del quale non passerà rasoio, perché il bambino sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalla mano dei dalle mani dei Filistei». La donna andò a dire a suo marito: «Un uomo di Dio è venuto da me, aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto davvero tremendo. Io non gli ho domandato da dove veniva, ed egli non mi ha detto il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora non bere né vino né bevanda alcolica, e non mangiare niente di impuro, perché il bambino sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre fino al giorno della sua morte». Allora Manoah supplicò il Signore e disse: «Signore, ti prego che l'uomo di Dio che ci avevi mandato torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà». E Dio lo esaudì l'uomo, tornò da Manoah e sua moglie. Manoah si alzò, andò dietro a sua moglie e, raggiunto quell'uomo, gli disse: «Sei tu che parlassi a questa donna?» E quegli rispose: «Sono io». E Manoah: «Quando la tua parola si sarà avverata, quale deve essere lo stile di vita del ragazzo e quali le sue occupazioni?» L'angelo del Signore rispose a Manoah: «Si astenga la donna da tutto quello che gli ho detto, non mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda alcolica, e non mangi niente di impuro, osservi tutto quello che le ho comandato». Fa un po' ridere Manoah, no? Però siamo proprio noi. Quando ho pensato a questa storia, ho pensato che ci sono tante storie nella Bibbia dove si parla dell'ordine di Dio, dove si parla di cosa fare, cosa non fare, mettere prima il Signore. Però questa storia, per le parole usate, era proprio emblematica. Noi siamo un po' come Manoah, no? Crediamo e ci interessiamo solo alle cose delle quali crediamo di aver maggior controllo. Allora Manoah era preoccupato, era felice, penso, no? Perché aveva un figlio nonostante sua moglie fosse sterile, ma era preoccupato di cosa fargli fare. Ed è bello, no? Che lui parla di occupazione, mentre l'angelo del Signore parla di consacrazione. Lo punta lì, no? Verso l'integrità. Punta sia il bambino che nascerà verso un futuro diverso, un futuro da colui che avrebbe liberato il popolo dai Filistei, e anche sua moglie, no? Mantieniti pura, fa guardare a quello. E lui? Quale deve essere l'occupazione? Proprio del sud, Manoah. Proprio il posto fisso. E però il Signore, no, è buono e lo ripete ancora e ancora, l'integrità, la purezza. E ancora, in Giovanni 3 ci sono Gesù e Nicodemo. E Nicodemo perché si era avvicinato a Gesù? Perché aveva fatto dei segni ed era innegabile che lui fosse da Dio. E noi iniziano a parlare, e Nicodemo, no, lui è un uomo importante. Poi appena Gesù gli inizia a parlare di ciò che è davvero importante, no, di nascere di nuovo, di una nuova vita, Nicodemo, un po' come a quelli di prima, non capisce più niente, è confuso. E Gesù cosa gli dice? «Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti?» Quante volte a Dio le abbiamo detto: «Signore, ti prego, voglio di più. Signore, dammi di più. Voglio di più della tua presenza, voglio di più di quello che tu mi hai da dare. Ti prego, mostrami il domani, mostrami il prossimo passo». E lui che ci dice? Ci guarda lì. «Ma se per le cose terrene, se per quella cosa lì sei ancora fermo, come ti posso mostrare di più? Se sei ancora lì con la tua mente, con i tuoi pensieri, in quella situazione da anni, io come posso mostrarti il di più che ho da darti?» Vogliamo di più davvero dal Signore? Lo desideriamo con tutto il nostro cuore? Abbiamo capito l'importanza di quel di più, l'importanza di avere una vita in Dio? Siamo pronti a sovvertire la nostra vita, a cambiare le priorità, a cambiare ordine nelle cose, per vivere quel di più? E il verso chiave forse di tutto questo discorso è in Matteo 6,33. «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. E la Bibbia ci porta proprio su un'altra dimensione rispetto alla nostra vita di ogni giorno. Forse no, ci porta nella dimensione giusta di come devono essere vissute le cose, di come il Signore aveva pensato la relazione con noi. Una relazione di cammino insieme, no? Adamo ed Eva che passeggiano nel giardino col Signore. Lui a quella aveva pensato per noi, passeggiare ogni giorno insieme, chiacchierare faccia a faccia. E il regno e la giustizia di Dio devono essere il motore della nostra vita, devono essere il perché di ogni nostra azione, di ogni nostra rinuncia, di ogni nostro sì e di ogni nostro no. Devono essere quello che ci entusiasmano, vivere per il regno, vivere per le cose che il Signore ci dice di fare, vivere per i perduti, vivere per chi è qui in chiesa, vivere per le cose di Dio deve essere il motore della nostra vita. E se oggi, pensando un po' alle nostre giornate, ci entusiasma qualcos'altro più di questo, forse c'è un problema. Forse c'è qualcosa sulla quale dobbiamo riflettere. Se siamo più mossi, se siamo più entusiasti, se preferiamo fare altro rispetto a vivere una vita nel Signore. Ma in ogni contesto, se noi usiamo il nostro lavoro solo come fonte di guadagno e non come posto di testimonianza, c'è un problema. Se noi usciamo con i nostri amici, utilizziamo i tempi liberi che abbiamo nella settimana per svagare la mente, perché sono stanco da una settimana di lavoro, forse c'è qualcosa sulla quale potremmo riflettere e fare meglio. Forse potremmo usare quel tempo per l'altro, potremmo usare quel tempo per stare col Signore. Non possiamo concepire lo stare col Signore come un tempo da doverci prendere durante il giorno, perché ce lo dobbiamo ritagliare, perché deve essere quel tempo che dobbiamo pensare a come averlo. Quello deve essere la prima cosa. La giornata deve essere organizzata intorno a questo. E se queste parole oggi ci risultano come un'utopia, come qualcosa di difficile, dobbiamo riflettere. Tutti, nessuno escluso. Dobbiamo pensare per che cosa stiamo vivendo. In 1 Timoteo 6,10 è scritto: infatti l'amore del denaro è la radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. L'amore del denaro, della realizzazione, proteggere la mia autostima, proteggere le mie insicurezze, realizzandomi, riuscendo nella vita, questo non mi protegge affatto da nulla. Questo non fa altro che aumentare le mie insicurezze. E questo in ogni area di vita, no? In ogni area di vita. Sul posto di lavoro, la nostra priorità è mostrare di essere figli di Dio, comportarci in maniera giusta e retta davanti a Lui, rispettare il nostro capo, rispettare i nostri dipendenti, essere persone oneste, pagare le tasse. In ogni cosa essere per primi figli di Dio. Non pensare a altro. Ma se io faccio questo, poi non riuscirò. Ma dov'è il tuo cuore? Qual è il nostro interesse vero e principale? Se noi viviamo il Signore, e poi magari sul lavoro e in ogni altra area, non viviamo integrità, cosa stiamo facendo? In cosa crediamo? Oggi, per le difficoltà di oggi, è possibile. Ce lo dobbiamo dire, lo dobbiamo testimoniare e dobbiamo essere noi i primi a farlo. Nelle relazioni, cercare di avvicinare l'altro il più possibile a Dio. Il più possibile, quando lo sa e quando non lo sa. Cercare di essere dei ponti per il Signore, tendere sempre una mano all'altro quando è in difficoltà. E mai comportarci in virtù del comportamento dell'altro, perché se no ne siamo sempre schiavi. Non siamo mai liberi nel Signore, invece noi lo siamo, lo dobbiamo volere. Se l'altro mi fa un torto, io non posso reagire nello stesso modo, o non posso neanche ignorarlo e dire no, lui non fa bene alla mia vita. La mia vita è migliore senza. Saremo sempre schiavi del comportamento dell'altro, invece noi siamo liberi, liberi di amare sempre, perché questo non ci colpisce, perché noi non viviamo per questo, non viviamo per essere rispettati dagli altri. Ma chi siamo? Noi siamo figli di Dio e viviamo per piacere a Lui. E se Lui dice che dobbiamo perdonare 70 volte 7, perdoniamo 70 volte 7. Perché la nostra vita, la nostra soddisfazione sono in Dio. Noi dobbiamo piacere a Lui, ci dobbiamo svegliare la mattina e dire: Signore, io oggi ti piaccio, allora cosa posso fare? Quella persona mi ha fatto quel torto e io lo perdono. E io lo perdono. Nelle relazioni d'amore non guardiamo altre persone che non siano il nostro partner. Non facciamo della nostra relazione sempre un campo di sofferenza. Ma il matrimonio, diceva ieri qualcuno, è fatto per rendere felice l'altro. E solo in questo noi riusciamo a trovare la verità, senza essere noi al centro. Perché altrimenti siamo sviati dalla fede e ci procuriamo tanti, tanti dolori evitabili. Deve essere importante per noi la dimensione spirituale delle cose, non quello che vediamo davanti ai nostri occhi. Se noi facciamo qualcosa che non dobbiamo fare, nessuno ci vede, e continuiamo, noi non viviamo per l'approvazione dell'altro, per nella nostra cerchia sociale essere quelli approvati. Noi viviamo per piacere a Dio. E che conseguenze pensiamo che possano mai accadere se noi siamo lontani dal Signore? Se noi ci sviamo, se sul nostro posto di lavoro rubiamo, se nella nostra relazione non siamo onesti, se diciamo bugie e nessuno lo sa, che conseguenze possono esserci? Che benedizioni potremo mai avere? Ci deve importare di quello che il Signore pensa. Un santo timore di Dio in tutto quello che viviamo, perché quello conta, quella è la verità. Non quello che c'è intorno, non quello che viviamo. Dio esiste. E se noi appuriamo che Dio esiste e diciamo che è vero, beh, dobbiamo preoccuparci di quello che Lui pensa, perché è vero che Lui ha il controllo, è vero che Lui è il re dei re. Allora di quello dobbiamo interessarci. Del resto è un in più. E il dettaglio fa la differenza. La piccolezza, quella parola fuori posto, quel pensiero, il dettaglio conta, è quello che ci separa o ci avvicina da Dio. E leggiamo in Matteo 19, 16, 26, una storia dove il dettaglio ha fatto tutta la differenza del mondo. Ecco un tale, gli si avvicinò e disse: Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose: Perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese. Gesù rispose: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui: Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: Io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. E ripeto, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. I discepoli, udito questo, furono sbigottiti e dicevano: Chi dunque può essere salvato? Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Gesù col giovane ricco passa dal generale allo specifico. E oggi il Signore non si interessa dei nostri bei sorrisi e del nostro tutto sommato va bene. Il Signore vuole entrare lì, lì dove è più difficile, lì dove fa più male, lì dove è capitato che magari abbiamo vissuto un momento dove siamo cresciuti col Signore e poi ci siamo scontrati contro quella solita area, contro quel solito problema, contro quel solito trauma che genera quelle conseguenze di cui parlavamo all'inizio. E lì ci siamo fermati. Abbiamo detto: Non è possibile. E siamo andati via. come sono andati via i discepoli prima, come è andato via il giovane ricco adesso. Non andiamo via. Non arrendiamoci quando è più difficile, quando vengono toccati quei tassi. Il Signore vuole guarire proprio lì. Vuole guarire proprio lì. Il Signore oggi vuole guarire quell'area dove ti sei fermato e hai detto: questa vita è troppo dura. No, l'hanno detto anche loro. Chi potrà mai vivere questo? Cosa gli ha detto Gesù? Magari a noi è impossibile, magari per noi è difficile, magari per noi potrebbe essere un'ennesima volta di fermata, ma con Gesù è possibile. Con Gesù è possibile. Con Gesù si può fare. Serve un cuore umile che vada al Signore e gli dice: Signore, io tante volte non ce l'ho fatta, tante volte qui mi sono fermato e questo ha portato a peccati e a peccati. Ho paura di quello che la gente pensa di me, ho paura del confronto, ho bassa autostima, penso di non farcela nella mia vita, ho bisogno di circondarmi di ricchezze, ho bisogno di avere una persona, se no mi sento troppo solo. Non lo so, solo tu sai cosa ti ha bloccato e cosa poi ha portato a crearsi intorno tante infrastrutture di peccato che ci separano sempre dal Signore. Arriviamo lì e ci fermiamo. Oppure siamo liberati, ci voltiamo indietro e guardiamo che forse ci conveniva rimanere lì, no? Un po' come la moglie di Lot. Ma è rimasta ferma come una statua. E noi rimaniamo fermi forse da anni e non ci muoviamo e non viviamo quel di più che il Signore ha per noi. Ma il Signore lo sa, lo dice, no? Agli uomini è impossibile, perché la tentazione ci gira intorno e ha sempre lo stesso schema il diavolo. Lo ha avuto fin dall'inizio, fin dalla prima tentazione. Il diavolo arriva in un momento di debolezza e instilla un dubbio. Lo stesso dubbio che Noè instillò ad Eva. Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero? Un dubbio che è una falsità, un dubbio che ti confonde ancora di più. E in quel momento di debolezza magari non sai cosa dire. E poi mina la tua fede, mina quello che il Signore ti dice, dicendoti: non è vero che ce la fai, non è vero che col Signore è possibile. No, quante volte non ce l'hai fatta, quante volte sei caduto, quante volte è andata male. Mina le tue certezze nel Signore e poi ti dà una falsa promessa. Cosa disse, no? Mangiate e sarete come Dio. Ti dice: vabbè, ma no, ma dai, ma che fa? Alla fine, cioè, tu lo stai facendo, no, per questo motivo. Alla fine non è che è proprio un errore, non è che va proprio male. Se nel lavoro accetti, ma è una minuzia. Non fa niente se in quel rapporto, magari quando ti arrabbi, esplodi. È la tua natura, è il tuo carattere. E comincia a lavorare in noi. E noi scegliamo, in quel momento in cui ascoltiamo quei pensieri, di barattare il Signore nella nostra vita per curare umanamente delle difficoltà. E noi curiamo i nostri traumi più brutti, le nostre paure più profonde, scegliendo di prendere una via che non è il Signore. Una via che magari ci fa curare per quel momento l'ansia. Ma poi il giorno dopo è la stessa cosa. Invece il Signore ci vuole dare quell'acqua per non farci avere mai più sete. Ci vuole dare quel pane quotidiano che dà speranza, ma speranza vera. E che ci toglie anche dal peso delle preoccupazioni di ogni giorno, perché noi non viviamo per quelle, ma viviamo per Dio. Il verso, no? Matteo 6:33. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date in più. La Bibbia è anche bella perché tutte le parole che usa sono specifiche. Non sono messe lì a caso. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. In più sta precisamente a significare tutte le altre cose che non sono il regno e la giustizia di Dio, che sono cose aggiuntive della nostra vita. Sono lì in più, sono cose supplementari della nostra vita. non sono la ragione di vita, che ci saranno date. Non è un nostro compito preoccuparci per quelle cose. Il diavolo ci inganna, ci imbroglia ogni giorno, facendoci pensare che noi dobbiamo conquistarci le cose, che dobbiamo preoccuparci per le cose del mondo. Il Signore, la Bibbia, è chiara. E oggi lo dobbiamo testimoniare ancora che vivere per Dio è possibile. Che è vero che se noi arrendiamo a Lui la nostra vita, Lui apre e chiude porte. Che è vero che se noi arrendiamo a Lui la nostra vita, Lui ci benedice. Oggi è possibile vivere un'intera settimana per Dio. Non venire qui la domenica e basta. Non avere solo la domenica come giorno per il Signore. Non pensare che solo servire è il nostro rapporto con Dio. Veniamo qui, suoniamo, siamo su in regia, siamo al benvenuto e pensiamo che il nostro lavoro col Signore è finito. Io ho fatto il mio. No. Vivere per Dio è ogni giorno ed è possibile farlo, anche oggi. E sapete, a volte se pensiamo alla frase dedicare la nostra vita a Dio, vivere per Dio, pensiamo solo all'idea di andare in un posto lontano, lasciare tutto e servire il Signore. Quello è un suo comandamento, è giusto, ma anche chi resta qui a Modugno può vivere per Dio. Anche chi resta e lavora e vive la vita di ogni giorno e si rapporta a persone che non credono può vivere per Dio. Dobbiamo dircelo, è vero, non è impossibile. Noi dobbiamo essere delle luci in ogni posto in cui siamo. Dobbiamo avere come primo interesse di essere quelle luci. Il resto è un in più, il resto è un in più. Deve essere per noi un in più. Il nostro primo pensiero deve essere il Signore. Ricordiamo il primo miracolo di Gesù a Cana. Cana era una città che aveva tante vigne e orti, è una città ricca di acqua. E succede che a un matrimonio dove Gesù era invitato viene a mancare il vino, un disastro, e chiedono a Gesù di fare qualcosa. Cosa dice di fare Gesù? Dice agli inservienti di riempire i recipienti di acqua. Basta. Riempire recipienti di acqua. E riempire i recipienti di acqua era qualcosa di fattibile per loro, possibile. Nulla di difficile, nessun miracolo, nessuno sforzo, nessun pensiero. Riempire i recipienti di acqua. Poi è Gesù che ha fatto il miracolo. Poi è Gesù che ha preso l'acqua e l'ha trasformata in vino. Il Signore ogni giorno ci chiede solo di riempire i nostri recipienti di acqua. E lo possiamo fare. Lo possiamo fare. È alla nostra portata. Riempire ogni giorno i miei e i tuoi recipienti di acqua viva. E poi il vino che ne viene fuori, che è quello che dà Gesù, è un vino molto più buono di quello che potremmo mai riuscire a produrre con il nostro impegno, con la nostra mente geniale. Molto più buono. Ma soprattutto è il vino giusto per noi. Se siamo in dubbio su quella che è una risposta, è una via da percorrere, se siamo nel Signore, sarà sempre la via giusta. Sarà sempre il prodotto migliore. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Io non so se in questo momento nel tuo cuore il Signore ha parlato o sta parlando, ti ha detto qualcosa e tutto quello che si è detto è risultato rilevante per te. Se stai maturando in te una decisione, non avere dubbi se è fattibile o no. Ce lo siamo detti, in Gesù è possibile. In Gesù si può fare, non è troppo. Non è troppo. E pregheremo per questo, però prima voglio leggere un'ultima cosa insieme. E prendiamo questa cosa che stiamo per leggere come un patto tra noi e Dio, tra quello che Dio ci dice di fare, tra quello che è il nostro ruolo e compito qui sulla terra e quello che Dio è per noi. 2 Timoteo 2, dall'1 al 13. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno, prestando servizio come soldato, si mischia nelle faccende della vita se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Nessuno, prestando servizio come soldato, si mischia nelle faccende della vita se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quel che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione. Se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Vogliamo chiudere i nostri occhi e in noi sapere che il Signore rimane fedele anche quando noi non l'abbiamo fatto. Il Signore rimane fedele anche quando non l'abbiamo scelto. E ci sono piaciute più le cose di questo mondo che il Signore. Oggi il Signore ci vuole svegliare, ci vuole far riconoscere Lui come priorità, come via, verità, vita, come colui che rimane fedele e con il quale regnare. Ora pregheremo e se senti di voler prendere una decisione per questo, di rimettere in ordine la tua vita e di dire: Signore, io ti voglio mettere al primo posto, puoi alzare le tue mani e dire: Signore, io ci sono. Signore, se tu mi chiami, se tu ci sei, io ci sono. Non me lo lascerò ripetere due volte, io sono con te. Io lo voglio, io voglio te e te soltanto. Grazie Signore, grazie davvero per questa mattina e grazie Padre perché possiamo venire a te con un cuore umile, sincero e dire: da soli per noi è impossibile, siamo dei peccatori, non ce la facciamo. Ma possiamo gridare a gran voce, Signore, a gran voce, che con te è possibile e che noi, Signore, vogliamo essere delle luci di testimonianza in ogni posto e avere te, Signore, portare te, essere tuoi figli è il nostro primo pensiero, è il nostro primo interesse, è la nostra vita, è tutto quello per cui noi viviamo, il tuo regno e la tua giustizia. E non abbiamo più paura, Signore, di posti e di luoghi, Signore, che non sappiamo come calpestare, perché sappiamo che Tu ce li darai in più. Signore, in questo momento noi vogliamo confessare che tutto quello che non sei Tu è un in più per noi, che non sarà più il nostro interesse, che non vivremo più per questo, che non ci preoccuperemo più per niente, Signore, che non sia Tu il Tuo regno. Grazie Signore perché è bello riposare in te. Grazie Signore perché in questo momento noi sentiamo il riposo che tu dai, Signore, la pace che tu dai, la vita che tu dai. Grazie Signore per questo. Nel tuo nome, Padre. Amen.